Letture di Radio 24. Le regole non sono una bizzarria concepita dai tiranni. Sono linee di confine che servono a rassicurare le persone e a renderle coscienti dei propri limiti, affinché siano in grado di superarli. Così Massimo Gramellini, sulla Stampa, riflette su chi vede nelle regole delle briglie che impediscono crescita e sviluppo. Due morti e decine di incidenti, tamponamenti e feriti sulle autostrade del nord-est fasciate dalla nebbia. E la solita domanda: perché? Perché le persone non alzano il piede dall'acceleratore quando intorno a loro la visibilità si riduce a una coperta di latte? Escludiamo che siano tutti ubriachi o pazzi o aspiranti suicidi. Resta una sola ipotesi. È saltato il senso del limite. La percezione chiara che ogni gesto non è un arabesco nell'iperspazio virtuale, ma va a finire da qualche parte, dove produce effetti concreti e definitivi. Se non bagni un fiore, il fiore appassisce. Se hai l'amante, tradisci il partner. Se corri in auto nella nebbia, prima o poi andrai a sbattere. Si chiama nesso di causalità e una volta lo insegnavano alle elementari, suppongo anche adesso. E allora cos'è che non si insegna più? Le ringhiere. Nessuno ci insegna più a mettere le ringhiere. Le macchine hanno gli airbag e noi? Le regole non sono una bizzarria concepita dai tiranni. Sono linee di confine che servono a rassicurare le persone e a renderle coscienti dei propri limiti, affinché siano in grado di superarli. Come la metrica nella poesia, hanno il compito di dare ritmo e forma all'esistenza. Le ringhiere interiori proteggono dall'eccesso, dall'arbitrio, dalla perdita di contatto col proprio corpo e con tutto ciò che lo circonda. La libertà consiste nello scavalcarle, ma senza di esse si brancola in uno spazio informe e alla fine si precipita. Avete ascoltato la lettura dell'articolo 100 all'ora nella nebbia di Massimo Gramellini, pubblicato dalla Stampa di mercoledì 9 febbraio. Letture di Radio 24. Storia incredibile, quella dei coniugi Mullen di Grimsby in Inghilterra. Lei 40 anni, lui 38. Per anni hanno giocato la stessa combinazione alla lotteria, ma il giorno in cui hanno smesso per occuparsi del figlio appena nato, ecco che la combinazione esce. Ma i due, una volta sistemato il nascituro, non si sono dati per vinti e contro ogni statistica, giocando di nuovo quella successione di numeri, hanno vinto. Era un rito, un atto di fede, una sfida al destino. Ogni settimana puntuale, la stessa ricevitoria, gli stessi numeri puntati alla lotteria. Chissà, magari anche la stessa penna per segnarli sul cartoncino. Scaramanzia, parola tutt'altro che in voga al di là della Manica. Eppure questo, per anni, hanno fatto Susan, 40 anni, e Lee Mullen, 38 anni, coppia di Grimsby, nord-est dell'Inghilterra, un'ora e mezza di macchina dall'operaia a Leeds. Con il sogno di sferrare un calcio a una vita fatta non certo di agiatezze, tre figli da mantenere, Susan particolarmente invalida. Reddito 300 sterline a settimana, 1200 al mese. Ma anche se preghi e persino se ti affidi agli amuleti, i numeri hanno logiche tutte loro, per definizione imperscrutabili, e il caso certo non si fa sottomettere dai sogni di milioni di giocatori e aspiranti miliardari. Figuriamoci da gesti e riti. Così, quando è nata la quarta figlia, il signor Mullen, un uomo corpulento il cui amore per il gioco evidentemente non gli ha fatto perdere la testa, ha dovuto scegliere: pannolini o i soldi per il lotto? Pannolini. E così, per tre anni, quella manciata di pence e sterline che finivano a ingrassare la lotteria è andata in pannolini, omogeneizzati e tutti gli arredi ad hoc della nuova arrivata. Ma dopo pochi giorni, beffardo il destino, i numeri magici, i loro numeri, escono. Addosso a Susan e Lee, anziché soldi, piomba la disperazione. Lo stomaco, hanno raccontato, si contorce fra rabbia e delusione. E c'è quella sensazione che la dea bendata ha bussato e nessuno ha aperto. D'altronde i signori Mullen erano impegnati a cambiare pannolini nella casa in affitto. Eravamo delusi e pensavamo che la nostra chance se ne fosse andata per sempre, hanno detto nel corso di una conferenza stampa. 3 anni più tardi, archiviato il periodo di pannolini omogenizzati, nella notte di Natale Susan fa un sogno. Lei e il marito avrebbero vinto una somma ancora più grande, e sempre con i loro numeri. Li hanno traditi una volta, ma loro mica hanno rinnegato quella combinazione che per anni hanno segnato sui cartoncini del lotto. Fiducia ben riposta. Il 4 febbraio, la pioggia di milioni, 4,8 per la precisione, inonda la casa in affitto di Grimsby. La ruota gira, le palline fissano la loro combinazione. Sì, è troppo facile dire, come spiega gongolando Susan, che è un sogno che diventa realtà. Siamo al di là del sogno, nel campo dove fede e caso, determinazione e fortuna all'ennesima potenza, si incontrano. Ora gli statistici spiegheranno che le possibilità di vincere con la stessa combinazione sono dello 0,infinito. Susan e Lee sono quella virgola. In mezzo però a 4 e 8, come i milioni che 3 anni dopo si sono ripresi dalla lotteria e con gli interessi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alberto Simoni «Se la fortuna passa 2 volte» dalla stampa di giovedì 10 febbraio. Lasciare in pace l'azionismo per spiegare la politica di oggi. Scomodare Lussu, Foa, Lombardi, Garosci, La Malfa e Valiani per Massimo Teodori del Corriere della Sera è improprio e anacronistico. Nella polemica tra berlusconismo e anti-berlusconismo sarebbe meglio lasciare in pace l'azionismo, la cifra morale azionista e le belle anime degli azionisti. La categoria dell'azionismo è solo un'invenzione utilizzata sia dai laudatores, che vi proiettano l'intransigenza civile che scorre nelle vene della Repubblica, sia dai detrattori che lo bollano come l'indomabile nemico giacobino dei valori tradizionalisti. Certo, il Partito d'Azione tra il 1942 e il 1946 ha svolto un ruolo politico decisivo nella Resistenza e nei comitati di liberazione, fino alla Costituente, ma in seguito l'azionismo scompare del tutto come movimento politico e come tendenza intellettuale coesa, mentre si sviluppano i percorsi dei singoli esponenti azionisti che imboccano strade diverse. La socialista di sinistra, Lussu, Foa, la socialista autonomista, Lombardi, la socialdemocratica, Garosci, e la liberaldemocratica, La Malfa e poi Valiani. Anche Ferruccio Parri seguì un itinerario tutto suo, tendente a perpetuare il ruolo unitario di capo della Resistenza. E Norberto Bobbio non può e non deve essere caricato del fardello di interprete autentico dell'azionismo. Per comprendere la penosa crisi d'oggi, dunque, è improprio utilizzare la chiave dell'azionismo, estraendone la memoria dalle vicende di 65 anni fa. Distinguere quel che va distinto in un determinato momento è la sostanza della lezione laica e liberale, a proposito della quale non corrisponde a verità l'affermazione secondo cui i liberali, anche di sinistra, hanno sempre rifiutato l'anticomunismo. La profonda anima liberale e liberaldemocratica riposa, fin dal periodo tra le due guerre, nell'antitotalitarismo, vale a dire nell'accoppiata di anticomunismo e antifascismo, in versioni democratiche e liberali. È vero che in Italia la storiografia di sinistra ha cancellato l'antinomia totalitarismo-antitotalitarismo, ma lo ha fatto non per ragioni storiche, ma politiche. Discutendo di liberalismo, come si possono dimenticare, ad esempio, i contributi antitotalitari di Hannah Arendt, Raymond Aron, George Orwell e in Italia di Gaetano Salvemini, Ignazio Silone e Mario Pannunzio? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Teodori per spiegare la politica di oggi «Lasciamo in pace l'azionismo» dal Corriere della Sera di giovedì 10 febbraio.